come lavoratori e lavoratrici dell'accoglienza, insomma, insieme al sindacato ADL COBA stiamo trovando da diversi mesi un po' per seguire tutte le leggi che vengono emanate sull'immigrazione e capire un po' come cambia il mondo dell'accoglienza in questo periodo. Dopo l'uscita del decreto sicurezza, il cosiddetto decreto Salvini 4 ottobre, abbiamo deciso di intraprendere un percorso di mobilitazione, perché il mondo dell'accoglienza verrà completamente attaccato e in alcuni casi spazzato via da questo decreto. Non c'è solo una questione quindi di antirazzismo nel opporsi al decreto Salvini, c'è anche una questione, come dire, di quelli che saranno i vostri posti di lavoro. Allora, c'è innanzitutto una questione di antirazzismo e di etica professionale al lavoro, nel senso che con questo decreto viene completamente svalutato e svilito il nostro lavoro, e per chi si troverà a avere ancora un lavoro sarà solo un lavoro completamente escluso dalla funzione di integrazione e accoglienza, ma saremo semplicemente dei carcerieri per chi avrà ancora un lavoro, che accompagneranno i richiedenti asilo verso la clandestinità, che non potranno più richiedere una residenza, che non potranno più richiedere un'iscrizione a una grafica sanitaria, che non potranno più attivare un tirocinio. Quindi innanzitutto ci siamo posti un problema etico del nostro lavoro e, in secondo luogo, ma non meno importante, anche un problema di salvaguardare i posti di lavoro e la dignità di professionalità che si sono attivate nel circuito cosiddetto virtuoso dell'accoglienza. Quindi entrambe le cose, diciamo, che sono parallele, non c'è nessuna secondaria all'altra. Quali saranno le attività di questa mobilitazione? Allora, noi stamane abbiamo chiesto sia al Comune che alla Prefettura un tavolo di confronto come operatori e operatrici per chiedere come il Comune intende applicare l'ordine del giorno che è stato approvato settimana scorsa, che intende non applicare il decreto sicurezza. Cioè, come nel concreto intende operare per applicare questo ordine del giorno, nel senso che da alcuni colleghi e noi stessi come operatori e operatrici rileviamo già negli uffici anagrafici, ad esempio, la difficoltà a chiedere le residenze, le carte d'identità, a rinnovare l'iscrizione dell'anagrafica sanitaria, come dicevo prima, e quindi noi chiediamo nel concreto cosa il Comune intende fare, che strumenti il Comune vuole mettere in campo per salvaguardare il sistema virtuoso dello SPRAR, come si pongono gli enti pubblici e anche gli enti gestori rispetto alla gestione anche dei centri di accoglienza straordinaria, date che le direttive del governo parlano di un abbassamento della quota pro richiedente asilo da 35 a 20 euro, chiediamo che tipo di iniziative vogliono mettere in campo gli enti istituzionali e gli enti gestori per garantire che comunque gli ospiti accolti abbiano dei servizi minimi, perché insomma, se questi tagli verranno applicati, noi come operatori e operatrici non ci renderemo disponibili a lavorare in eventuali CPR o centri di accoglienza dove non verranno garantiti i servizi minimi alla persona. Tu citavi sia il Comune che la Prefettura. La prefetta in presa l'altro giorno ha fatto sapere che, al di là, come dire, dell'ordine del giorno approvato a Bologna, se diventerà legge appunto il decreto Salvini sarà superiore, diciamo, alla decisione di un ordine del giorno di un consiglio comunale. Alla luce di questo, visto che proprio il decreto ha ottenuto la fiducia, quindi insomma azzerando anche la discussione parlamentare, e ora va alla Camera, da questo punto di vista voi cosa chiedete? Noi chiediamo che gli enti locali, l'amministrazione, ci dica come intende disobbedire a questo decreto. Insomma, ci sono gli esempi virtuosi di Mimmo Lucano Riace, ci sono altri esempi in Italia, e chiediamo proprio di aprire un tavolo di confronto per capire come non applicare il decreto a livello locale. E chiaramente a livello nazionale stiamo seguendo anche noi l'iter di approvazione, ma con la fiducia il governo ha voluto completamente svilire anche il ruolo del Parlamento. Voi aderirete alla manifestazione che c'è domani a Roma? Sì, come ADL COBAS, il sindacato ADL COBAS ha organizzato anche un pullman, e invitiamo chiaramente tutti, anche operatori e operatrici, migranti e tutta la società, a partecipare alla manifestazione antirazzista di domani a Roma.